And the gun tapa. Oh yeah. A me va, si è vero, a chi non so, è ancora sempre che sia vero, che sa cosa, che si è separato, a che molti lo fanno per una questione di tassi o di tante altre cazzate che si inventano. Non è di certo, però il rap è la generazione, non ci puoi fare niente. Oh, ma quelle non sono canzoni, quelle lì. Queste sono canzoni da gagaglioni, come si dice a Sassari, per carità, è una vergogna. Poi nel modo come si conciano, tutti sporchi, capita. Hanno avuto paura certa gente di farsi la puntura per il Covid, per non prendere il Covid, e la voi ti vai tutto il corpo a puntura con questo inchiostro schifoso, soprattutto con le tinte nere, oscure, ma l'hanno mai. Io posso capire, un piccolissimo tatuaggio, tu sei un cantante, ti fai, che so io, un disco, oppure che so io la chiave di violino, ma che tu ti riempi tutto il corpo, anche in faccia, anche nelle parti intime, eccetera, tutto pieno di tatuaggi, ma è che sei un maiale, tu sei un poco, sei un maiale, sei sempre sporco, tu ti puoi lavare anche con l'acido muriatico, sei sempre sporco. Quando si riempiono il corpo o si tagliano la lingua per essere come un serpente o queste cose qua, o si fanno le pupille nere, ma ne vedi un ragazzo si è amputato le dita delle mani, le dita dei piedi per diventare non so cosa, adesso si deve amputare le gambe, lo stanno convincendo, cioè lì ci vuole lo psicologo, ci vuole, perché una persona che pensa di tagliarsi le dita perché o di tagliarsene tre perché vuole diventare una salamandra, e lì ci vuole un psicologo chiuso in un reparto, perché finché ti fai tatuaggi fino a un certo punto anche quelli è un conto, ti metti il nome di tua moglie, ti metti il nome di tua figlia, della tua nipotina, eccetera, ma finché poi ti riempi il corpo, che poi si fanno tutte le braccia tatuate proprio chiuse dall'inchiostro perché devono cancellare altri tatuaggi, e allora lì deve intervenire uno psicologo, perché non è una cosa accettabile tagliarsi la lingua e diventare un serpente e una salamandra, amputarsi le dita dei piedi. Lì ci vuole uno psicologo, dai. Sì, e quando gente è malata, proprio malata mentalmente, no? Non è possibile, non è possibile assolutamente, guarda, che possa essere così una persona, oppure quello che si buca le orecchie e si fa un buco nelle orecchie largo quanto una moneta da 2 euro, ma quando mai, capita? Oppure che ti metti tutti questi piercing attaccati al naso, alla lecce, all'ombelico, qualcuno se l'ha messo anche nella natura, più di uno, per dire no, ma quando mai, non è possibile, dai, che uno possa essere così imbecille a ridursi in questa maniera, nemmeno gli animali, una volta puniamo la loriga in un muro per legare i cavalli, per legare gli asini, per legare anche le vacche, per non scappare, per non andarsene, però erano animali incatenati alla loriga, che l'anello che nelle case dei paesi, già lo sai come facevano, se le muravano davanti alla porta, si murate e lì legavano per dire l'asino o il cavallo, perché era quello il parcheggio degli animali, ma l'animale lo trattavano bene, invece loro oggi in questa gente qua sono trattati peggio degli animali, per loro volontà, non perché effettivamente la gente li tratti così, è la loro volontà, è gente pazza, veramente, guarda. Avanti. Buonasera a tutti, dai, vi stavo ascoltando. Eccoli che si pitturano gli occhi con l'inchiostro che si fa il tatuaggio degli occhi, se li fanno tutti neri. E sono orrendi, e le corda. Sì, ciao già. Sì, ma è così, lo so. Ma per me quella gente è pazza. Ripeto, io capisco, uno si fa un piccolo tatuaggio e per dire cosa sì, sei un cantante, tanto per fare. Beh, adesso io ho vinto il platino d'oro e mi voglio tatuare un disco di platino sul braccio o sul petto, dove mi piace, vabbè. Oppure sei un musicista e ti fai una chiave di violino, oppure sei un giocatore di calcio e ti fai un tatuaggio, un piccolo tatuaggio di un pallone di calcio, o sei un ciclista e ti fai un tatuaggio di una piccola bicicletta. Ecco, sono cose passabili, ma che uno si riempia completamente di inchiostro il corpo e poi vai in giro a lamentarsi perché ti obbligano a fare il vaccino per il Covid. Ma non mi dice più guarda, vero, perché solo uno passa può fare certi ragionamenti e certi atteggiamenti può assumere. Vai già. Sono scelte di vita, però sono scelte estreme, perché poi sì che sono uno, due, tre anche, vanno bene, poi quando sono troppi sembri sporco, non sembri manco tatuato, sembri che sei sporco, quando non è troppi, a me mi fa quell'impressione lì. Vabbè, è un modo di vedere le cose, è come rovinarsi, perché quello è rovinarsi proprio, quando ti tatti tutto il corpo in mezzo alle dita, che non c'è manco un punto dove tatuarti, è rovinarsi, a parte i soldi che spendono, perché i tatuaggi costano un sacco di soldi. Sì, a parte, ma i soldi sono suoi, e se li spende meglio per lui, però è una vergogna, guarda, per me tu dici, se la senso di essere sporco, no, è proprio sporco, per me è proprio sporco quando uno vuol dire, perché tu addosso hai un qualcosa che non fa parte del corpo umano, non, questo qui non è una pennellata di tinta perché hai in faccia o nelle braccia perché ti stai tingendo il portone di casa tua o la finestra di casa tua, ti sei sporcato così, e poi ti pulisci, ti lavi e basta. Ma queste ragazze sono completamente pitturati, proprio veramente uno schifo, a parte il fatto che è molto rischioso, no? Oltretutto, perché più di uno ha avuto dei problemi seri anche sulla pelle con questo fatto dei tatuaggi. Per carità, ragazzi. Vai Luca. Ma considera che comunque qua in Italia, comunque, e anche all'estero, in America, comunque, abbiamo dell'igiene, comunque tatuando. Vai in Africa o in quei paesi lì, qua, e vedi come fanno i tatuaggi, ti pongono le mani in cabavero sull'igiene. Sì, ma loro usano erbe, non fanno male almeno quello. Io non mi sarei fatto tatuare da quelli, ma neanche ma così mi avviene bagato. Loro sono primitivi e lavorano così, però usano colori fatti da erbe, quindi sono più sani di quelli che mettono a lui. La marijuana usa! Ma quelli sono bingiosi di natura, perché quelli il mangiare lo fanno praticamente nei tegami tutti sporchi, tutti, e poi si mettono in 30 persone con le mani a mangiare, perché magari tutte le mani sporche, perché non hanno delle sorghi. Farsi, e se ce l'hanno non se ne lavano nemmeno, e entrano a pugni così da questo tegame tutto sporco, tutto nero, e mangiano tutti i cibi. Qui ci sono peggio dei porci, i maiali vivono così, che mangiano tutti quanti dallo stesso tegame, o meglio dallo stesso contenitore. Brugalizzate. È vero, tutti con le mani, pure, non usano posate. Sì, fanno vedere su Facebook, hai visto quelli nei mercati, i truppi mangiando dentro, ma per loro è una cosa normale, io come fai a giudicarli? Boh. Per loro anche in Thailandia, no, fanno delle cose, ci sono delle cose in strada che a noi farebbero vomitare, però per loro è una cosa normale, come la nostra cultura e la loro cultura. E giudicarli, boh, non lo ritengo. perché per loro è normale, loro sono nati così, hanno le loro usanze, Giulio, così, come possiamo giudicarli? Per noi, a noi fa schifo, quello sì, non lo faremo mai, non mangeremo mai, noi, andando lì, una cosa del genere, così, con i sarroni che ti masseggiano dentro al piatto, però per loro è normale, capito? Loro sono molto ignoranti, non sanno che cosa provoca un tegame sporco, i batteri che provoca, non sanno i tuppi che loro mangiano, cosa provocano, e loro li fanno ingrassare e poi se li mangiano i tuppi, capito? No, non lo so, bastate di vedere delle cose veramente in strada, preparando di tutto e di più, chi si brovaglia, chi fa, i curimani, i bigliani, cioè, veramente ti viene molto stomaco. Però per loro è una cosa normale, capito? Sì, mangiano serpenti, mangiano qualsiasi cosa che trovano in campagna, mangiano erba, addirittura uno una volta ho visto la testa che ha aperto la pancia di un animale e dall'intestino gli ha tolto un pugno di sterco, praticamente non aveva acqua per bere, lui l'ha premuto in mano e si è bevuto il liquido che dallo sterco di questo animale che aveva in pancia, nello stomaco. Ma quando mai? Ma vuol vivere solo questi? Nemmeno gli animali fanno così, dai, che hanno un minimo di pulizia di animali, e loro stessi se la cercano, eppure sono animali. Vai già. Dai l'acqua sporca all'asino, a vedere se te ne beve. No, gli animali sono puliti, come se sono puliti. Però loro secondo me sono anche ignoranti, Giulio, non si rendono conto di ciò che vanno incontro, le malattie che li possono, infatti sono, rivedono mille malattie, le mosche, mentre stanno mangiando le mosche sopra le labbra, tutto pieno di mosche, mamma mia. Quei poveri bambini, rapida, che non hanno un minimo di criterio, questi genitori disgraziati che sono, hanno 30 figli, fanno, guarda, perché hanno magari 4-5 mogli, questa gente, e poi i bambini se li buttano così, buttati per terra, in mezzo all'estroncizia, in mezzo a qualsiasi malattia, perché già le vediamo anche in televisione, che poi chiedono anche le offerte, chiedono per guarire queste ragazze, ma non è possibile, come stai dicendo tu, col muccio lungo dal naso fino alla pancia, questi bambini con tutte le mosche sulla faccia, sul viso, ma quando mai questi bambini non lo vedi che stanno soffrendo? E tu li metti al mondo per cosa? Ma per carità, quella gente, quella non è gente, quelli sono pazzi nel vero senso della parola, non sono del terzo mondo, quelli sono del trecentesimo mondo, persone che vivono nel trecentesimo mondo. Vai Luca. E anche il fatto di che ti dicono di aiutare l'otto per mille, chi della sull'Africa, adesso sono sempre quelli figliuri, però è sbagliato, infatti c'era la cosa lì di sterilizzare le donne, perché cioè vi stanno aiutando, va bene, è una vostra stracultura fare figli, un'usanza, chiamala come te di Biasi, ma vedi tuo figlio, ne hai uno lì in terra che se la stanno mangiando le mosche, che è gonfio come un pallone, che lo stanno aiutando tanta gente con queste come ti chiamano le croce rossa che vanno lì a fare, ma alla fin fine si vede ben sì, di nuovo una fotti in onda, perché continuano a farsi figli uno dietro l'altro, e allora cosa? Io da giudo, ma senza un certo punto, ma se ti vengo prendi di figliori e ne hai tre in terra che si usano mangiando i mochi, e dai. E le stanno portando su col cibo terapeutico. Ma esagerata già questa cosa, dai. Sì, purtroppo ci sono paesi che sono indietro, molti, molti, molti. Adesso tutti i bambini adesso questi ricordi che ci sono qua, c'è un cellulare, eccetera. Ma in Italia, capisci, che non c'è nulla. Perché è tutta mandronia che hanno questa gente lì, non vogliono vivere così senza fare niente, non a caso poi lavorano le donne e non gli uomini, è vergognoso, vivono, la vado avanti a forza di droga, vado avanti. Sono certe nazioni che fanno veramente schifo, come la Colombia ad esempio, il Brasile, che il Brasile anche quello è nelle stesse condizioni più o meno. L'Argentina era così una volta, lo stesso, certo, e tanti altri, e tanti altri paesi anche grandi, e oggi un pochino si sono rimodernati e si sono, diciamo, si sono salvati un po' dalla miseria totale, ma prima erano così, erano, sai già. Purtroppo sono nati con queste usanze qua e continuano a portarle avanti, non è che si migliorano, che cercano di migliorare qualcosa, no, no. Addirittura hanno fatto, c'era questo di colore che mangiava, faceva la live mangiando, con le mani, c'era brodo, c'era brodaglia, si prendeva con le mani da dentro il tegame, la roba se la metteva in bocca, il suo che discendeva, vabbè, il brodo dalla bocca. E gli hanno detto come mai che mangiavano con le mani, se non conoscevano le cose, hanno detto che anche noi mangiamo con le mani, perché tu pollo non lo mangi con le mani? Con cosa lo mangi, gli ha scritto. Ma quello non sanno nemmeno da quale parte inizia il buon vivere, guarda, non è possibile, perché sono anche prepotente di tutto. Adesso tu vedi tutti questi neri che vengono da fuori, vengono in Italia, in Europa, insomma. Sono anche prepotenti oltretutto, perché almeno fossero delle persone che ragionano, invece hai visto, vengono qua per delinquere, vengono a pretendere, subito appena che arrivano, è vero, un po' di umanità ci vuole, certo, e infatti noi ne abbiamo tanta umanità perché li stiamo anche aiutando tra l'altro, perché appena che arrivano subito li vestiamo, subito gli diamo tutto quello che gli occorre, gli diamo il telefonino, gli diamo la scheda sempre tranquillamente, tutte queste cose, insomma, per essere in contatto con le loro famiglie, però loro continuano a vivere in quella maniera. Ma quando mai? Ma va papi a ziri, è gente abituata a vivere proprio nel mondo del taglio, perché quella gente ha quei livelli. Vai Luca. Sì, ma poi io dico, prima questo è il governo, prima deve aiutare, io la penso così, prima deve aiutare la tua terra, cioè l'Italia, che c'è una sanità che sta andando allo sfascio, e poi se ne rimane, ma se ne rimane, però aiuti tanti altri, ma non ti puoi far vedere aiutando queste persone solo per darti voti o per apparire belle in televisione, quando l'Italia stesso che è una vita in disgrazia, senza parlare dei terremotati, e poi ti mette a aiutare queste persone che sbarcano, e dargli tutti gli aiuti possibili, e secondo me è sbagliato. Prima devi aiutare la tua terra, non riesci a aiutare la tua terra e ti fai vedere grande aiutando questa gente qua. Io sono, chiamami egoista, ma secondo me prima di pensare alla tua terra e soprattutto alla sanità. Infatti, soprattutto alla sanità, ma questa è sempre una questione di politica, già lo sai, perché la sinistra, hai visto che dice venite qua tutti, venite qua, che noi vi accogliamo, dice, povera gente, questo o quest'altro, no, lo sai. Non è che si rendono conto che venendo qua impoveriscono noi anche oltretutto, oltre che ci stanno inquinando di sporcizia, perché quella lì è sporcizia che stanno portando, e ci stanno inquinando di cosa? Di mala vivenza, perché a un certo momento tu non vedi altro che tutti i santissimi giorni li sentiamo, o persone che non fanno altro che fare delle cose assurde, contro legge, ma non è possibile, guarda, non è possibile. E poi li arrestano, li portano in questura, li interrogano e poi subito sono fuori. Sassari che Sassari, ragazzi, perché era una città tranquilla da sempre, come sta, io ho 80 anni e non ho mai mai visto Sassari in queste condizioni. Oggi come oggi è veramente una vergogna che noi sassaresi non possiamo andare, proprio andare nel Sassari Vecchio, verso via Santa Polinare, via San Donato, in quelle stradine così, in via La Marmo, proprio a passare lì, se passi tanto tranquillo. Ci sono questi disgraziati, grazie, che se non sei attento ti rapinano tranquillamente così, o addirittura ti ammazzano se non sei attento. Infatti tanti sassaresi stanno scappando dal centro storico perché non si può più vivere, che poi tra l'altro la delinquenza di questa gente si sta allargando anche oltre il centro storico, ce lo sappiamo. Vai Luca. Se ti racconta, molti stanno scappando dai condomini, dal viaggio che c'è da di quello che cucinano. È una cosa impressionante, una cosa impressionante. Ma ormai siamo al non ritorno, Giulio, no? Ormai l'Italia, non solo Sassari, no, ma è l'Italia che ormai è andata così, e non può solo peggiorare, perché a migliorarla non ce la faranno mai, mai, perché ormai questi hanno preso le redini dello spaccio, di tutto che si combina, nei casini, le liti, quello che è stato sbagliato dai comuni, dai sindaci, che li hanno messi nei centri storici, che i centri storici sono la parte che deve essere protetta della città, perché quella è una storia della città, fa parte della storia dell'inizio della città, e tu la rovini in 448 così. Boh, vai già. L'unica cosa sarebbe mandarceli tutti, anzi sarebbe stata l'unica cosa non farli a mai entrare qua, come hanno fatto diversi paesi che non li hanno fatti manco entrare. Vai in altre Italia di Poverola a vedere se vedi un extracomunitario, non ce n'è manco uno. Io sono stato a Verona diverse volte e non ci vedi altro che leghisti con i tavolini chiedendo firme, questo e quell'altro, però non trovi extracomunitari, né cinesi, né di niente, non si trova un extracomunitario. Oggi ci sono anche lì, dappertutto ci sono già, magari saranno in minima misura, però anche lì adesso già ci sono, stai tranquillo, non c'è posto in Italia dove non ci sono questi extracomunitari. È veramente uno schifo, è la colpa tutta questa, la colpa è soprattutto della sinistra, perché sono loro. Basta pensare, ragazzi, che noi, il nostro ministro è ancora oggi sotto processo per averli bloccati, ha detto tutto per aver difeso l'Italia, premesso che io non è che sono tanto simpatizzante di Salvini, però Salvini ha ragione, lo stesso magistrato l'aveva detto, perché dice Salvini ha ragione, però bisogna bloccarlo tra di loro. Già abbiamo sentito le intercettazioni, sì, dei magistrati che hanno detto queste cose, un certo Palamara ad esempio, che poi tra l'altro ha fatto anche il libro. Invece la sinistra, venite qua, vi accogliamo noi tutti quanti, perché noi, dice, non stiamo facendo più figli, non stiamo facendo, abbiamo bisogno di manodopera. Ma quale manodopera abbiamo bisogno noi? Se non c'è lavoro, che manodopera ti serve? Se lavoro non ce n'è. Ma dico io, è proprio da imbecille, la politica è la bestia nera dell'umanità, guarda. Vai Luca. Sì, perché poi cosa succede? Che le aziende assumono queste persone perché lo Stato li paga i contributi, li paga praticamente lo stipendio burro. Sicché dice, se tu assumi queste case comunitarie noi ti paghiamo tot, e sicché anche lì l'italiano va a farsi fottere alla fine. Gli italiani, però io sono del parere che i centri storici vanno preservati. Poi vieni in periferia, pre Danieda, vai in campagna, andate Biagi, li vai ai ghivi, tipo Campo Rom, buoni ghivi, perché loro hanno le loro esigenze, culture, usanze, ma queste cose qua non le devono portare qua, assolutissimamente, non le devono portare qua, sporcizia e usanze e tutto ciò che combinano. c'è tutto un business, centri di accoglienza hanno dei grossi guadagni, capito perché ti fanno venire qua, che c'è un business dietro. No, c'è una fame nei nostri confronti, devi dire, perché con tutte le spese che ci sono, per questa gente noi non avremo mai, per dire, una pensione, dico, come si deve, non avremo mai la sanità come si deve, perché tu vai, tu puoi andare in ospedale, così per curiosità, ce ne sono 6, 7, 8, 10 di questi neri che arrivano così in punto in bianco, magari c'è gente che è un giorno, due giorni aspettando di essere visitato, arrivano loro, li chiamano subito, le fanno entrare, e questo succede alle poste, questo succede un po' dappertutto, addirittura quelli deficienti degli impiegati delle poste lo vedono un nero così in ufficio aspettando in attesa e lo chiamano. Io tante volte quando andavo a prendere la pensione l'ho notato questo, che mi chiamavano nonostante che erano appena arrivati, chiamavano questa gente perché dice che hanno la priorità. Ma quale priorità deve avere? Tu sei arrivato adesso e fai la prima come la faccio io, intanto perché io sono a casa mia e lui invece è un ospite qua, e si comportano malissimo oltretutto, no? E poi arrivano lì, si mettono allo sportello con le monetine da 5 euro, da 1 euro, da 2 euro, e magari sono 7, 8, 10 mila euro da cambiare, e l'impiegata se li deve contare, e tu intanto lì ore aspettando fin quando loro non fanno il conteggio. E di queste persone durante il giorno, sai quanto ce ne vanno a farsi contare i soldi, per poi magari se li tengono alle poste oppure se li spediscono nel loro paese, questo non lo so. Vai Luca. Eh sì, è vero. E la stessa cosa a darle le case popolari, tanti venne, gente una vita, già sarisi una vita, si tenderà a casa popolare, arrivano loro e ti dicono che è indiscriminazione, quello e l'altro, ma secondo te sono una vita io aspettando la casa popolare, arrivi Ghica, ma loro hanno la precedenza, e chi deve sempre in carriera per usare Sariso? No, addirittura se un anziano o qualsiasi persona va ha bisogno di cura, si ricovera all'ospedale per qualche giorno, così quando ritorna si trova la casa occupata da Ghica di grandi anni, e tu chiami le forze dell'ordine e non rimandano via, non i garoni. E intanto nel frattempo ti hanno rubato tutto quello che c'è dentro casa, ti hanno spaccato la porta per entrare e ti hanno occupato la casa. Ma dico io, caspita, uno non può nemmeno essere ricoverato e assentarsi per un giorno, due giorni, perché magari ti hanno ricoverato all'ospedale per controlli, eccetera. Tu rientri a casa tua e ti ritrovi questa gente che ti hanno occupato l'appartamento. Ma te ne rendi conto? Vai già. E davvero non li fanno niente, perché io avevo visto un programma dove c'erano questi neri che avevano occupato questa casa e arrostivano nel giardino di, si chiama quello che parla, sembra una donna, quel presentatore che sembra una donna, quel giornalista, adesso non mi viene il nome, e comunque gli hanno fatto lo scherzo, capito? Non ce ne vuole polizia in mezzo, bisogna andare qua, mi assento energumeni e pestarli a sangue, vedrai che non occupano più nulla, polizia non bisogna chiamarne, che se no rimangono lì e non li butti più via. Ciao Natalia, purtroppo la devi chiamare per forza, perché intanto tu non riesci a entrare dentro casa tua, lo dico io, poi arrivi lì, ma addirittura ho sentito, capita, la gente che è riuscito a mandarli via questi qui tramite la polizia, portandosi via le cose della casa, e la polizia dice che li vedeva, e secondo loro diceva questa è roba mia, me la sto portando via io, capito? Invece è la roba del proprietario dell'appartamento. Ma cose d'altro mondo, capito? È veramente vergognoso che un italiano non debba essere tutelato da questi elementi così disgraziati e delinquenti, perché sono delinquenti, la maggior parte sono delinquenti, perché che vengono qua non hanno niente, sono obbligati a delinquere, a Maragana, perché sennò non potrebbero vivere. Vai Gianni. E già vivono con il reddito che gli danno anche. No, l'hanno intervistato uno, ha detto, io perché è venuto in Italia? Perché in Italia si mangia, si beve gratis e vi violentiamo anche le donne, così ha detto. Eh sì, però il reddito non i pigliani, i nocchi era pieno di rumeni che andavano a Gianni un reddito, come si mai va il rumeni sui Parigi? Chi non mi è venuta la maniera. No, a che reddito non ne so più dentro, a nessuno. E quindi devi ne pensarsi, se non c'è più un rumeno qua. Sono reddito di inclusione, come si chiama adesso, non è più reddito di cittadinanza, danno reddito di inclusione, anche quello, e già ci sono sempre, non è vero, dicono l'hanno tolto il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza l'hanno tolto a chi può lavorare, e chi invece non può lavorare o chi ne ha necessità, un invalido o una persona anziana di una certa età che è malata, oppure una famiglia veramente numerosa che non ha sostentamento, il reddito ce l'ha ancora, perché però nonostante tutto, cioè, da quando Meloni ha deciso di togliere il reddito di cittadinanza sono aumentati i posti di lavoro e siamo arrivati ad avere un'altissima percentuale di occupati a titolo indeterminato, mentre invece prima, capita, quando erano quelli di sinistra, premesso che a me la politica poco mi interessa, anzi non mi interessa più, però questi sono fatti reali, bisogna riconoscere che da quando ha tolto il reddito di cittadinanza siamo arrivati a 24 milioni, mi sembra quasi 25 milioni di occupati, a differenza di prima che eravamo intorno ai 16, 17, 18 milioni, quando erano tanti i lavoratori occupati in maniera regolare. Sai già. In un modo o nell'altro, questi qui cappano, spacciano, fanno, ne fanno tutti i colori. Specialmente i nigeriani, i senegalesi sono più bravi, si guadagnano il pane vendendo quelle ciabattine, queste robe qua, però i nigeriani sono micidiali, sono di quelli che spacciano, sono in giro della prostituzione, tutte queste cose. Non sono i nigeriani, poi ci sono gli albanesi, che quasi tutti i giorni non fanno altro che commettere un omicidio in Italia, anche ieri un albanese ha ammazzato la moglie, anche lì albanese, ma comunque sono cose che hai fatto in Italia, sono, e dunque è sempre l'Italia che deve pensare a arrestarti o a fare il funerale a questi bastardi, insomma le spese ce le ha sempre l'Italia, sempre a causa di questi disgraziati che arrivano da fuori, che qui non avrebbero dovuto esserci. Vai Natalia. La legge ci vuole, come in Australia e in America. Se tu non sei in regola, non ventri, e buh. In Australia non ventri, no, perché tu appena che arrivi, scendi dall'aereo, sei subito controllato a Maragana, non ti puoi portare niente, ma nemmeno una caramella ti porti tu dal tuo posto, da dove sei proveniente, tu non porti niente, manco una caramella, perché appena che arrivi devi sequestro e ti faccio anche la multa, per dire, già le ho viste tante trasmissioni, queste in Australia, queste qua in Australia non credo che ci sia tanto da stare al digre, perché quando uno arriva lì può essere anche serio, tranquillo, ti tengono lì a giornate intere fin quando non ti hanno controllato tutto quanto, il bagaglio, quello che hai, e vedono e constatano che sei e chi non sei, e sta tranquillo che tu non ti muovi dai chili, se no ti prendono, ti mettono di nuovo sull'aereo e ti spediscono subito a casa tua. Vai già. Sì, ti mettono le manette, io l'ho visti all'aeroporto, se hanno cibo, ma lo sto portando a mia figlia, non so che, no, non ci interessa niente, ma c'è qualche cosa nella valigia da mangiare, no, non c'ho niente, poi li trovano la roba, capito? Li trovano lavano la roba, questo che cos'è, non è cibo, ma questo che è per mia figlia, perché lo devo far gustare, che non ho mai mangiato, questo e quell'altro, insomma robe di scuse, ma no, non c'è niente da fare, mi mettono multe grosse e quando ritrovano la droga li arrestano anche. E invece noi cosa facciamo? Andiamo e ne facciamo venire i delinquenti qua, ne facciamo venire, ce ne sono 2500 in tutto il mondo, italiani arrestati in carcere che hanno combinato chissà che cosa. Allora, quella là ha 4 denunce condannate in Italia e più non so cos'è che ha avuto anche, insomma ha avuto delle condanne in Italia, va in Ungheria a picchiare le persone ungheresi. E quelli là l'arrestano giustamente e poi l'Italia si impegna per farla liberare perché l'hanno candidata agli europei. Ma dimmi tu se un elemento del genere deve fare da parlamentare. Ma è veramente una vergogna, guarda, no, non è possibile. Come lo stesso questo che è appena arrivato dall'America, ha fatto 24 anni di carcere, quello lì era un ex concorrente niente meno di Mikey Buongiorno, ti puoi immaginare, ed è accusato di omicidio. Ora è in Italia e dobbiamo essere noi a mantenerlo, perché in America aveva fatto l'omicidio, stando a quello che alle accuse dell'America. Poi bisogna vedere, lui si è sempre dichiarato innocente, adesso vedremo, sicuramente ci sarà un nuovo processo, ma intanto nel frattempo l'abbiamo portato in Italia a spese di noi italiani. Ma dai, oh, vai Natali. Ma quella è la destra che li ha fatti venire, perché Giorgia Meloni che è andata a cogliere, si è impegnata per farla arrivare qua in Italia, e le spese adesso dall'America vengono in Italia per mantenerlo in carcere. È certo che la destra, appunto, ma sto dicendo, la politica è la beccia nera dell'umanità. Io parlo della politica, la politica è tutto, destra, sinistra, centro, estremisti, eccetera eccetera, tutti quanti, la politica è la beccia nera dell'umanità, non c'è niente da fare. Natali, riprendi. E dai, vi ascolto che sto cenando. Ok, io sono già mezzo stanco perché ci sono già un'ora e mezzo e oltre la baracchina. Sono da tanto, ma era un po' Luca. Luca si è rientrato, Luca si è assentato in sovramodulazione, poc'anzi, boh, te l'hai sentito già. Noi raccoglimo tutta la bondetta dei nostri lupi. Appunto, tutta la sporcizia umana viene qua, ma non è possibile, ragazzi. E siamo noi sempre a pagare. Quei buffi lavoratori, quelli che veramente lavorano con sudore della fronte a mantenere questi delinquenti e queste sporcaccioni che vengono qua. Ma non è possibile, guarda. Non si può accettare una situazione del genere, non si può accettare. Adesso, prima volevano metterci tutta la mondezza, quella pericolosa, la volevano portare qui. Adesso vogliono mettere centrali uniche. Cioè, ce la vogliono distruggere quest'isola, perché secondo me sono gelosi che è rimasta quasi intatta con la natura. Ce la vogliono distruggere in una maniera o nell'altra, ce la vogliono distruggere, capito? Anche quello poi non ne parliamo, è una vergogna, ragazzi, perché la mondezza degli altri posti me la deve portare qua. Perché non la puoi toccare a casa tua? Cos'è questa cosa? Se la mondezza è di Milano, devi toccarla a Milano. Se è della Germania, la devi toccare in Germania, non la devi portare in Italia ad inquinare i nostri terreni, il nostro ambiente, per carità. Perché abbiamo delle persone che non sanno fare politica come si deve, non sanno difendere l'Italia, ecco qual è il discorso. Per non parlare poi della carne, perché io so benissimo che a volte andavo al porto a pescare, quindi vedo tutto il movimento quando scaricavano le navi, e scaricavano questi autotreni pieni di maiali vivi, con targhe spagnole. Probabilmente portano gli animali vivi, li macellano qua e li fanno passare per sardi, capito? Sì, beh certo, queste cose le sappiamo, è un po' come il pecorino sardo, dice, e lo vendono a Roma, il pecorino sardo lo chiamano pecorino romano, quando il pecorino è perché hanno dei contratti evidentemente che dove devono passare una certa quantità di alimenti, li devono passare fuori e vengono passati come cosa? Come prodotti sani, ma dico io, capita. Poi i pochetti nostri non ce li accettano, o perlomeno non ce li accettavano fino a poco tempo fa, però ne riportano dall'estero, ne riportano qua, perché quelli non si ammalano, quei pochetti lì, i nostri si ammalano e quelli non si ammalano mai. Vabbè, è normale, li fanno passare per buchi. È tutto un marciume, mio padre diceva sempre, questo mondo è tutto un marciume. Sì, beh certo, è proprio un marciume, veramente, aveva ragione tuo padre, che diceva così, aveva proprio ragione. Purtroppo così, no, la peste suina è capita solo in Sardegna, perché negli altri posti la peste suina non c'è. A Maragana è come dappertutto, c'è. Per non parlare poi tutte le altre carni, non solamente la peste suina, la carne suina, ma tutte le carni che arrivano da fuori e ce la fanno, però c'è un'etichetta carne italiana e magari è arrivata dalla Turchia o dall'Ungheria o dalla Polonia, chi lo sa, però scrivono carne italiana. Magari è carne di coccodrillo. Infatti, magari è carne di coccodrillo, veramente, per carità. Poi, ma comunque volevo dire. E vabbè, dai. Sono già stanco, già. Non voglio riposarmi, dai. Ti lascio, mi dispiace lasciarti solo. Non rientra Luca, stavo aspettando che rientrasse per lasciarti con lui. E invece non è rientrato. Luca. Non preoccuparti, Giuse, devi andare, vai tranquillo. Non c'è nessun problema, dai. Prima la salute e poi il resto. Ok, già. Ma mi dispiace lasciarti solo. Anche perché mi si sta abbassando la voce. Per cui, anche se ho bevuto un po' d'acqua proprio per cercare di chiarire, lo sai, il problema mio è quello, che dopo un po' che ho parlato comincia a abbassarsi la voce. Oi, oi, oi, la vecchiaia già incombe. Beato che arrivi, c'è gente che muore giovane, beato che ci arriva la vecchiaia e a godersela più possibile. Lo so già, lo so, anche quello è vero. Beato che ci arriva, c'è gente che muore giovane veramente, soprattutto bambini e ragazzi. E non ci possiamo fare niente in queste situazioni qua. Non so cosa dirti, già. Appunto, quanto riguarda il resto, a proposito, la radio sta andando sempre bene, sì, la mia radio, volevo dire, tornando, perché adesso mi sono fissato con quello, come avete detto l'altro giorno. No, va bene adesso, Giuseppe, va bene. Te lo sai che te lo dico se non va bene. No, adesso va bene, tranquillo, quando va bene io te lo dico. L'altro giorno era gracchiante e nessuno se ne accorgeva, solo io me ne sono accorto. Tu pensa che c'è la batteria molto scarica, l'ho misurata col tessere, l'ho misurata proprio ieri, e a 3,5 volte quella batteria lì. Capito? Mai avrei pensato che una batteria con 3,5 volte potesse diventare un microfono che ha bisogno di 9 volte, mai avrei immaginato, guarda. E sotto alimentato non ce la faceva, quindi ci va graziato per quello. Infatti ce l'avevo, ma se voi non me l'avreste detto io non l'avrei ancora cambiata, perché non sapevo che mai poteva sapere. Poi mi avevo detto, dice, il BB4 è un microfono come un palmare normalissimo. Ma no, non è possibile, perché allora subito ho pensato alla batteria, perché ce l'avevo un sacco di tempo senza cambiarla, ma anni senza cambiarla. Mi è sembrato che volesse entrare Luca, tu sei? Beh, sono rientrato. Ma si sente la stampante, no? Non credo che dia fastidio, perché mi sta stampando un coprivendolo. È così, Giulio, non ci possiamo fare niente. Ormai il mondo è andato così, l'Italia, Sassari, non la cambia, non riusciranno mai tra l'altro a buttarceli fuori, perché è una questione di interesse anche. Chi si sa che prende soldi, perché non è possibile, perché tu guarda la Meloni da una parte e guarda Salvini dall'altra, non si capisce chi, e poi si trova nel ristorante, no, secondo me è tutta una farsa quella che fanno. Questi di destra bisogna tutti uccidere. Purtroppo è così, purtroppo è così. Sì, beh certo, si chiama partito, cioè l'alleanza di centrodestra, però in realtà secondo me non c'è democrazia. La politica che c'è, che si intende, l'unica persona che si intende veramente di politica per me è proprio Meloni. Tutti gli altri sono molto ma molto scarsi, ma molto scarsi, lo poco. Vedi, Salvini lo stesso, ha dei buoni discorsi, tante volte ha ragione, però in maniera spropositata, perché non è possibile, ad esempio, che tu mi pretendi di fare il ponte di Messina, quando per spendere 15 miliardi ci vogliono per fare quel ponte, quando la sanità italiana sta cadendo a pizzi. Non è possibile, guarda, quando mai non ci sono priorità migliori più del ponte, anche perché il ponte serve a chi? Serve solo ai messinesi, ai siciliani, ai calabresi, a me che sono sardo, o a te che sei sardo, o a quello che è piemontese, o lombardo, o toscano, non le serve il ponte, non le serve. Salvo in qualsiasi, proprio in rarissima eccezione, che uno si trova da quelle parti, va bene, ma quando mai quei 15 miliardi, avete considerato che la situazione dell'Italia è questa, cioè che non ci sono soldi? Pensa alla sanità, pensa ai salari, aumentare i salari, che è meglio, altro che ponte sullo stretto di Messina, vai Luca. Ma infatti io dico, tutto va avanti, no? La tecnologia, la cellulare, computer, tutto quello che vuoi va avanti, tutti comprano, il consumismo c'è, perché il consumismo c'è comunque, no? E poi perché un ponte da qui a Livorno o da qui a Genova non avrebbe fatto comodo? Però siccome ci sono troppi intruiti, troppe marigussi, ma gli aerei, le navi, sembra così, ma le attraversate così comunque portano soldi, non ti possono a te fare un ponte da qui a Genova o a Livorno, Olbia Livorno, non te lo buoni va, capito? Cosa che in America ci sono ponti lunghissimi, non buoni di, ma è nel mare, qual è nel mare il problema? Le vadene in tutti i rughi, ponti lunghissimi, in America, e non li vuoi fare in oghi. Eppure vedi, c'è l'introito sempre, maledizione. Vai Gianni. Ma infatti, sono spese troppo grosse, potrebbero utilizzare per altre cose, che sono più importanti del ponte. Se il ponte non c'è, passa dove stanno passando sino adesso e via. E cosa devi fare? Un ponte e là si vuole dei bambi, c'è troppa. Non c'è giustizia, ci sono cose spropositate in questo mondo. Non c'è una cosa equa, dai. Ma ho capito già, ma se tu avessi un ponte da qui a Livorno, Olbia Livorno, oppure da qui a Genova, tanti voti ve ne andate in continenti, e quelli del continente, quante volte ci sarebbero potuti venire qua in vacanza, e il turismo, e tutte queste cose, secondo me avrebbe portato, dobbiamo imparare, anzi, a parte i pionieri, no? Ma anche dall'America, che fanno questi ponti così lunghi. Cioè è anche un business per la Sardegna, così per l'Italia, no? Perché loro vengono qua e noi andiamo là, invece no, loro guardano gli aerei, devo regare la macchina, un camper, e quanto mi costa, e il biglietto che costa, perché d'estate aumenta tutto, poi invece io mi biglio un camper, mi biglio la macchina, mi ando a vedere l'acquario di Genova, ci posso andare tante volte, per dire, no? e invece non lo puoi fare. E anche quello, guarda che sembra così, ma è molto importante. Sì, la sanità c'è, ci vuole, però se andiamo sempre a pensare a queste cose, non andiamo mai avanti sulle altre, è inutile. Sì, ma indubbiamente non ci sono dubbi che non siano le opere, così grossissime opere sono importantissime, però considerando la situazione attuale dell'Italia, che non abbiamo più nemmeno medici che se ne stanno andando perché non riesce a pagarli in maniera adeguata alla loro professione, mi sembra che sia più importante fare e dare aiuti alla sanità, non solamente come dicono loro, che dice, sono stati prestati 3 miliardi in più di tutte le altre volte per la sanità, ma non bastano, non sono sufficienti. Tu vuoi spendere 15 miliardi per fare il ponte. Il ponte indubbiamente è una grandissima opera, non ci sono dubbi, però poi alla fine sai cosa succede? Da 13-15 miliardi diventano 20, diventano 25 e alla fine magari rimane anche incompiuta l'opera, come è successo ad esempio nel traforo dal Piemonte alla Francia, che hanno fatto, sono arrivati a un certo punto e hanno chiuso tutto, ed è rimasto sempre quello. Il tragitto, lo spazio dove poter passare è rimasto sempre quello, il traforo è rimasto incompiuto, il discorso è questo. Invece cos'è successo? Se quella specie di presidente che avevamo prima, parlo di Conte, se avesse avuto più testa, probabilmente non avrebbe buttato i soldi che ha fatto nel bonus, che solo il 4% delle case italiane sono state aggiustate con i soldi dei poveri, i ricchi si hanno aggiustato la casa, anche quelli che non ce l'hanno la casa, hanno pagato 2.000 euro, 2.200 euro a cranio, anche di neonati, considerando le spese che ha creato con quel eco bonus. E questo è il discorso. Vai già. E noi glielo abbiamo preso, abbiamo fatto la riunione, tutto quanto era tutto pronto e le ha regalato proprio quando dovevano fare i lavori, ma se la prendono nel luglio, per carità di Dio. Sempre sul più bello, lui usufruisce poca gente e poi quando mancano i soldi bloccano tutto e rimane così a bocca aperta. Ma tu te le immagini un ponte, ma non costruito da oggi, da tanti anni fa, che ti porta a Genova? Cioè, una cosa bellissima, sarebbe stata una cosa bellissima. Non mi puoi dire male, queste strutture che sono impegnative. Ma si riguarda nei gusti oggi, guarda in televisione come le costruiscono in 448, no? Guarda il ponte di Genova, giustamente, in quanto tempo l'hanno fatto, eccetera. Ma ponti, ci sono ponti lunghissimi sul mare, ormai quelle cose lì non destano preoccupazioni per nessun ingegnere. È la volontà di farle queste cose, e secondo me avrebbe portato molti benefici alla Sardegna col turismo. No, io dicevo impegnativi come costi, non come costruzione. Ma se sarebbe stato fatto già, quanti i costi sì, e quanti benefici avrebbe portato però. I ricchi, i milionari vengono in Costa Smeralda, no? Si fanno manighivi con i loro yacht, no? Ma a te che tu vuoi andare a Genova a pigliarti un caffè, no? Per dire, o passare un fine settimana, lo potresti fare, o andare a trovare tuo figlio o tua figlia che appunto è fuori, ma quanto, di cosa parliamo? Cioè, guarda che una cosa, sarebbe stata una cosa grandiosa per tutti, per loro che sono là a venire qua come turista e per noi andare là. Vai Giulio. Sì Luca, ma ovviamente, ma questo lo sappiamo, sono delle cose estremamente belle e valide e importanti perché che una nazione abbia certe strade, certe cose, questo sì. Però la situazione dell'Italia, nella maniera in cui è messa, con tutti i miliardi, centinaia di miliardi di debito che ha, non riesce a fare niente, dei ponti che hanno bisogno di manutenzione, ogni tanto ne crolla uno, figurati un po', grazie, se noi siamo in condizione di fare ponti di questo modo, in questa maniera. Sarebbe bellissimo, certo, ma quando una nazione ha i soldi per poterli fare, certamente le cose si fanno, chiunque li farebbe. Non è che possiamo paragonare noi, ad esempio, l'Italia all'America, non abbiamo certamente la stessa ricchezza, no? Il discorso è sempre questo. È bellissimo, certo che è bellissimo, capita, sarebbe straordinario. Tutte le settimane uno se ne andrebbe a Genova, dico a Genova per dire magari anche nelle città limitrofe a Genova, però purtroppo ci vogliono i soldi per fare certi lavori, ci vogliono i soldi, e sono miliardi, miliardi, miliardi, miliardi che l'Italia purtroppo non ha. Se li avesse avute sarebbe stato bello, anche perché crea posti di lavoro, crea non solamente turismo, ma creerebbe anche anni posti di lavoro, perché per la campagna immigrazione ci verrà anni, ci vogliono per costruirlo. Ma qui noi non abbiamo i soldi, non ve ne è di là, capito? E dunque è meglio fare prima le cose prioritarie, la sanità, gli stipendi adeguati, le pensioni, tutte queste belle cose qua che sono più importanti per poter tirare avanti, se no ci dobbiamo bloccare. Vai già. Io riprendo il microfono, vi saluto, che saranno già portati il cane che si sta lamentando, vuole scendere. Allora, comunque sono qui, ti potete essere la terapia. Ok, già, ci sentiamo allora, ciao va, ciao Gianni, e anch'io adesso chiudo, anche perché devo fare la cura in questo momento. Sono già, ci faccio 5 minuti, allora devo fare la cura. Babbo, ciao già, grazie per la chiacchierata, alle prossime, ci sentiamo, eventualmente domani se coincide continuiamo un piccolo discorso. Avanti Luca. Ciao Gianni, è entrato anche Antonio, che mandiamo avanti. Vai a tu. Grazie a tutti. Cioè, sono andato a Polizia a salutare, vi ho sentito, salutone a tutti in generale. Ciao, Anto, io sono Lucia, ciao. Ciao, Anto, ben entrato, dai, io chiudo, che adesso devo andare a fare la cura. Ci sentiamo eventualmente domani. Ti lascio con Luca, Anto, dai, continuate voi, io devo per forza chiudere. Alle prossime, ciao Antonio, ciao Luca e ciao Gianni, grazie a tutti per la chiacchierata. Ascolto il finalino, poi chiudo. Vai Luca. Anch'io devo chiudere. Lascia acceso, ma devo chiudere perché devo andare in cucina a preparare. Avanti, Antu. Anch'io, guarda che quello da mangiare, è da mangiare. Saluto a tutti, purtroppo non ho potuto entrare prima perché era addormentato, vero? Ok, ce la risentiamo, ciao a tutti. Ciao a tutti di nuovo, ciao Luca, ciao Giulio, Antonio, buonasera. Ciao Gianni, ciao a tutti, ciao. Ciao. Choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco choco cho